tempo di pace, i figli seppelliscono i padri, in tempo di guerra sono i padri che seppelliscono i figli. Attilio Manca. Sono nato a San Donà di Piave il 20 febbraio del 1969. Sono un medico. Ho 43 anni e sono il primario del reparto di urologia al Policlinico Gemelli di Roma, grazie agli insegnamenti del professor Ronzoni. Si sono considerato un'eccellenza nel campo della medicina italiana. Sono sposato, ho una moglie fantastica e due bambini bellissimi, Angela e Gioacchino. Ero Attilio Manca, nato a San Donà di Piave il 20 febbraio del 1969. Ero un medico. Al momento della mia morte, l'11 febbraio 2004, avevo 34 anni. E tutto il futuro davanti. Mamma, preparati. Dobbiamo partire subito per Viterbo. E perché? È successo qualcosa ad Attilio? Ha avuto un incidente? Gino, preparati. Dai, partiamo. Devo vedere mio figlio. Lo voglio abbracciare. Il cadavere di Attilio Manca fu rinvenuto poco dopo le 11 del mattino di giovedì 12 febbraio del 2004 nel suo appartamento di Viterbo, vicino Roma, quando i colleghi dell'ospedale Belcolle, che lo aspettavano in sala operatoria per un intervento programmato, allarmati per il ritardo, accorsero nel suo appartamento. Aperta la porta dell'abitazione, con l'aiuto della proprietaria dell'alloggio, trovarono il cadavere di Attilio, seminudo, disteso sul piumone del letto ancora intatto, come se non avesse dormito lì. Primi rilievi. Le braccia sono distese lungo il corpo, le mani e le dita ritratte, in tensione, come di chi cerca di difendersi prima di morire. Il volto mostra il setto nasale deviato, come se avesse subito un colpo violento. L'emorragia della narice e della bocca ha insanguinato parte del corpo prima di riversarsi sul pavimento. Sul corpo si distinguono macchie ematiche, sui polsi e sulle caviglie. Due segni di iniezione sul braccio sinistro, uno sul polso e l'altro sull'avambraccio. Non si riscontrano segni di altri buchi recenti o pregressi. L'appartamento, con le luci accese e la televisione in funzione, ma senza sonoro, appare in perfetto ordine, come se fosse stato pulito di recente. Sul pavimento, all'entrata del bagno, viene trovata una siringa di insulina usata, con il tappo di protezione inserito, identica a quella rinvenuta nel bidone della spazzatura, assieme a due flaconi di Tranquirit, uno completamente vuoto e l'altro a metà. Piegato su una sedia, il pantalone della vittima. Non vi è traccia né delle mutande né della camicia. Appoggiati su un tavolo, gli strumenti di lavoro del medico. Una pinza da chirurgo, ago e filo da sutura, un paio di forbici e delle pinze. Un ritrovamento anomalo, visto che mio fratello non portava mai gli strumenti fuori dal luogo di lavoro, né tantomeno li teneva a casa. Durante i 18 anni trascorsi da Attilio lontano da Barcellona Pozzo di Gotto, i miei genitori andarono a trovarlo svariate volte. In nessuna delle visite ad Attilio mia madre tralasciò di pulire a fondo la casa. Conosceva le sue abitudini, ogni angolo, oggetto per oggetto, e mai in tutto questo tempo trovò strumentazione medica. La polizia chiese che venissero fatte le opportune perizie sugli strumenti ritrovati, ma la richiesta non fu ascoltata. Veniva meno così l'opportunità di conoscere il DNA della persona che eventualmente era stata assistita da mio fratello e, ancora più importante, la sua identificazione. Le ultime 36 ore di vita di Attilio Manca furono ricostruite solo parzialmente da alcuni testimoni occasionali e soprattutto dal registro delle chiamate e dei messaggi telefonici inviati e ricevuti a partire da mezzogiorno di martedì 10 febbraio. Ore 12. Prima telefonata. Ciao Loredana, Hai deciso per questa sera, vai? No, no, no, io non posso. Senti, ma che ne diresti se pranzassimo insieme? Va bene. Allora sono da te fra mezz'ora. Ore 13, seconda telefonata. Ehi, mamma, come stai? Attilio. Allora? Senti, avete chiamato il contadino per il vigneto? Ah, ancora con questa idea della vigna? Ma dai, è un peccato. Che facciamo? Lasciamo quella terra così, incolta? Sai che nei prossimi anni potremo produrre il nostro vino, come una volta. La fai facile tu, da lontano. Ore 14:30. Terza telefonata. Attilio, ci dobbiamo vedere. Quelle persone ti devono parlare. No, Salvo, scusami, ci siamo detti tutto. Ma poi, ma che altro dobbiamo dirci? Amico mio, non te lo sto chiedendo. Ci dobbiamo vedere, punto e basta. Salvo, ma come faccio? Ma tu devi capire che pure per me sta cosa non può andare avanti. Alle 14:33 e 11 secondi da casa di una sua amica, Loredana, Attilio telefonò dunque a un amico d'infanzia che vive a Barcellona Pozzo di Gotto. La conversazione durò quasi 10 minuti e dopo la morte di Attilio, Loredana raccontò al fratello Gianluca Manca che dopo la telefonata vide Attilio cambiare improvvisamente umore. Si fece triste, quasi sul punto di piangere, e non nascose un evidente fastidio per quello che sembrava un appuntamento del quale, nonostante la sua improvvisa preoccupazione, non diede alcun dettaglio. Finita la telefonata, il medico si alzò, indossò la sua giacca e disse a Loredana che sarebbe andato a fare una passeggiata in auto. L'infermiera insistette perché rimanesse e Attilio le rispose che probabilmente sarebbe andato a dormire. Nel lasciare la casa, mantenne il riserbo sui suoi programmi. Dalle 17 alle 18 chiama un collega. Pronto? Ciao Maurizio. Ehi Attilio, mi ha detto Rita che mi ha cercato. Sì, senti, mi dici come posso fare per raggiungere Via dei Serpenti? E a me me lo chiedi, una vita che abiti a Roma. Certo, sì, però poi devo anche andare a Piazza del Popolo. Ma è tutto a posto, è una strana voce. Sì, non ti preoccupare, niente, tutto a posto. Ah, a proposito, io non ce la faccio a venire questa sera alla cena con i colleghi. Attilio, sei sicuro che vada tutto bene? Ore 9:30. Attilio chiama la madre. Sarà l'ultima volta che Angela sentirà la sua voce. Mamma, senti, ascoltami. Tu mi devi fare riparare la motocicletta. Attilio, quale motocicletta? Dai, quella che c'è al villino a mare, a Tonnarella. E non ci puoi pensare tu. Non devi venire per il tuo compleanno. Senti, mamma, ti sto chiedendo un favore. Devi andare a Tonnarella e portare la moto dal meccanico. Attilio, ma siamo in inverno, tu la usi solo in estate. Vabbè, dai, passami papà, io lo chiedo a lui. Attilio, ma ti senti bene? Che hai? Mi fai preoccupare. Ma perché quella strana telefonata? Dopo la sua morte, i miei genitori portarono la sua motocicletta in un'officina di riparazioni e i meccanici constatarono che il motore era in perfette condizioni. Che cosa voleva lasciarci intendere? Che si trovava a Tonnarella? O che qualcuno fosse a Tonnarella? O forse che la causa della sua morte, che sentiva vicina, avremmo potuto cercarla proprio là? Questa telefonata, confermata in prima istanza dalla polizia, sparirà successivamente dai tabulati disposti dalle indagini preliminari. La polizia giustificherà la mancanza della telefonata come un errore comprensibile, visto il dolore della madre. Se veramente non avessi mai ricevuto quella telefonata e non si fosse trattato di una manovra di depistaggio, che necessità avrei avuto di mettermi in ridicolo con certe dichiarazioni? Può una madre mai dimenticare l'ultima chiamata di suo figlio? Che fa Attilio Manca durante tutto mercoledì 11 febbraio? Dove si trova? Rimane chiuso in casa durante tutta la giornata? Di quella giornata esistono solo due fatti comprovati. Questa telefonata alla madre, intorno alle 9:30 del mattino, della quale, come detto, non rimane traccia nel registro, e la dose letale di eroina che, secondo la relazione peritale, si iniettò tra le 20:15 e le 21:15. Dopo la telefonata a Barcellona, non parla con nessuno, non risponde al telefono, nessuno lo vede e, ancora più strano, non partecipa alla cena con il professor Ronzoni né agli impegni professionali previsti a Roma per quel giorno. Nell'appartamento non si trovarono né la cena pronta, né i resti di un pasto, né tovaglioli sporchi o resti nella pattumiera che facessero supporre che l'11 febbraio, nel suo ultimo giorno di vita, Attilio Manca avesse mangiato a casa. Le analisi tossicologiche e l'autopsia sul corpo di Attilio furono effettuate dalla dottoressa Dalila Ranaletta, medico legale ma anche moglie del professor Antonio Rizzotto, responsabile del reparto di urologia dell'ospedale Belcolle di Viterbo, dove lavorava lo stesso Attilio. Il mio esame autoptico sul corpo: vistosa deviazione del setto nasale sul volto, due segni di iniezione rispettivamente sul polso e l'avambraccio del braccio sinistro, ma io ero un mancino puro e non visibili altre tracce di iniezioni recenti o datate. Nel sangue, rilevante quantitativo di principio attivo dell'eroina, rilevante quantitativo di diazepam, principio attivo del sedativo Tranquirit, e non ingente sostanza alcolica. Causa della morte: effetto delle tre sostanze e conseguente arresto cardiocircolatorio ed edema polmonare. Signori, io vi chiedo, è questo il risultato di un suicidio? Il mio corpo, di giovane speranza della scienza medica, martoriato. La mia dignità infangata, l'esistenza della mia famiglia deflagrata, l'intelligenza di una nazione offesa, un crimine alla civiltà compiuto. Secondo la relazione del dottor Gliozzi, medico del 118, servizio di emergenza sanitaria e quindi il primo a esaminare il corpo senza vita di Attilio, la morte avvenne almeno 11 ore prima del rinvenimento del cadavere, ovvero tra le ultime ore dell'11 e le prime del 12 febbraio, probabilmente intorno alle 23:45. Una vicina di casa, che al momento dei fatti viveva nello stesso piano, dichiarò alla polizia di aver sentito chiudere la porta dell'appartamento di Attilio tra le 22 e le 22:15 del giorno 11. Non fu però in grado di dire se, quando si chiuse la porta, qualcuno entrava o usciva di casa, né di conseguenza se il giovane stava rientrando a casa o, di contro, una o più persone, non ancora identificate, uscirono dall'appartamento in un'ora molto prossima al momento della morte. Contrariamente alle abitudini di Attilio, che dormiva con la porta chiusa a chiave dall'interno, i primi ad arrivare nell'appartamento e a scoprire il corpo senza vita del medico trovarono la porta chiusa senza mandata. Quindi, in base alle conclusioni dell'autopsia effettuata dalla dottoressa Ranaletta e alla relazione del dottor Gliozzi, la sequenza oraria dei fatti noti delle ultime 4 ore stabilisce che tra le 20:15 e le 21:15 venne praticata l'iniezione di eroina, che intorno alle 22 avvenne l'ingestione del cibo e che approssimativamente 2 ore dopo, intorno alle 23:45 dell'11 febbraio, si spegneva definitivamente e misteriosamente la vita di Attilio Manca. Sin dall'inizio la versione degli investigatori risultò a noi familiari e amici poco credibile. In primo luogo perché mio fratello era fin da bambino un mancino puro, per cui sembrava improbabile che avesse potuto iniettarsi la droga nel braccio sinistro. Peraltro, sulle siringhe mancano le tracce di qualsiasi persona. A me e ai miei genitori, arrivati il giorno seguente dalla Sicilia, fu impedito affettuosamente però, di vedere il cadavere, per evitarci la sofferenza di scoprire il volto di Attilio orribilmente sfigurato, in conseguenza della caduta sul telecomando del televisore. Questo secondo quanto affermarono le autorità. E allora perché nelle fotografie fatte dalla polizia scientifica il telecomando appare semi-nascosto sotto il braccio sinistro di mio fratello? Né si può mai spiegare come sia credibile che la caduta su un telecomando appoggiato sul letto possa sfigurare il volto di un uomo al punto da renderlo praticamente irriconoscibile. Non accettai mai la verità ufficiale, quella che parlava di droga, di morte per overdose, la tesi che medici, polizia e magistrati avevano sostenuto sin dal primo giorno. Impossibile trattandosi di Attilio. Difficile da credere, ripetevano gli amici e i colleghi. Assurdo per quelli che lo conoscevano, incluso il suo maestro dell'università, il professor Gerardo Ronzoni, che per primo pensò alla possibilità di un omicidio. Non me l'hanno fatto vedere nemmeno un'ultima volta. Irriconoscibile, mi dissero. Per una morte tanto inaspettata quanto inspiegabile. Ora capisco. È stata una scusa per non farmi vedere i segni sul braccio sinistro e il viso tumefatto. Il 20 febbraio del 2005 Angela e Gino Manca lessero sul quotidiano Gazzetta del Sud le dichiarazioni del mafioso Francesco Pastoia, secondo le quali Bernardo Provenzano, malato e operato di prostata, era stato assistito da un urologo nel suo rifugio. Pastoia era l'addetto alla sicurezza del padrino e al recapito dei pizzini, attraverso i quali il capo indiscusso di Cosa Nostra riceveva le richieste dei suoi uomini e rispondeva con istruzioni e ordini. Era stato arrestato il 25 gennaio del 2005, insieme ad altri 50 presunti implicati nella copertura, nell'ambito dell'operazione Grande Mandamento. 3 giorni dopo la dichiarazione, Pastoia si suicidò nella prigione di Modena. Pochi giorni più tardi, la tomba di Pastoia, nel cimitero di Belmonte Mezzagno, fu distrutta da ignoti che incendiarono la bara con le spoglie del mafioso. Ciccio Pastoia non fu l'unico a parlare del misterioso urologo, lo fecero anche altri pentiti. Alcune conversazioni tra mafiosi intercettate dalla polizia rivelarono che dopo l'intervento chirurgico, un medico amico prescrisse a Provenzano una particolare dieta per aiutarlo a superare i problemi post-operatori. Tuttavia, per incompetenza o superficialità, la procura di Viterbo non volle mai indagare seriamente la pista suggerita dall'interno di Cosa Nostra. L'identità del medico rimane ancora oggi misteriosa. Dopo lo shock della morte di Attilio, al dolore si aggiunse altro dolore. Prima quell'accusa infamante che mio figlio fosse un tossicodipendente, poi le parole di Vittorio, padre di un amico di Attilio. E se fosse stato utile a un latitante di mafia, come per esempio Provenzano? Poi quell'articolo sulla Gazzetta. Ma perché nessuno indagava? La dichiarazione di Pastoia fece pensare ai genitori di Attilio a un possibile legame tra l'intervento chirurgico di Provenzano, ancora latitante in quel periodo, e la morte del figlio, uno dei primi medici in Italia, insieme al professor Gerardo Ronzoni, in grado di operare la prostata per via laparoscopica. È probabile che la mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta degli uomini di Provenzano, avesse segnalato il giovane urologo Attilio Manca come il più adeguato ad assistere il boss di Corleone. Non sarebbe stata la prima volta che la criminalità locale rispondeva alle esigenze delle grandi famiglie mafiose della provincia di Palermo e specialmente dei corleonesi. E se Attilio fosse stato obbligato a prestare cure mediche prima o dopo l'intervento chirurgico a Marsiglia e che dopo essersene servito il numero uno di Cosa Nostra lo avesse fatto uccidere per eliminare un testimone scomodo? Provenzano fu arrestato nell'aprile del 2006, più di 2 anni dopo la morte dell'urologo. I sospetti iniziali si rafforzarono quando, in occasione della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, i genitori, già informati dell'intervento alla prostata a cui era stato sottoposto Provenzano a Marsiglia, ricordarono che in quello stesso periodo il figlio era stato in Costa Azzurra e da lì li aveva chiamati un paio di volte. Nella prima telefonata mio fratello sembrava nervoso. Disse che si trovava in Costa Azzurra per assistere a un intervento, ma non prestammo molta importanza alla cosa. Durante la seconda telefonata gli chiedemmo perché non ne approfittava per visitare Monte Carlo, ma rispose che non poteva poiché si trovava nella parte opposta, vicino a Marsiglia, e che era molto occupato. Nessuno dei colleghi dell'ospedale di Viterbo sapeva nulla. Un fatto insolito per Attilio, che puntualmente informava noi e gli amici di tutti i suoi viaggi. Ci raccontava quello che faceva, degli alberghi nei quali alloggiava, delle attenzioni che gli riservavano. Tutti sapevamo dei suoi viaggi col professore Rizzotto. Eppure sul suo soggiorno in Costa Azzurra fu ermetico. Non diede spiegazioni a nessuno circa le ragioni della sua trasferta. Se Attilio aveva operato sempre in Italia, com'era possibile che si trovasse in Francia per assistere a un intervento chirurgico? Chi era il paziente che l'aveva spinto ad andare all'estero? E soprattutto, perché, contrariamente alle sue abitudini, ci tenne all'oscuro sui dettagli del suo inusuale viaggio? Forse la sofferenza è la strada possibile per arrivare alla verità. Nel maggio del 2004, quando per la prima volta, parlando del mio suicidio, la parola mafia fu pronunciata, tutto cambiò. I vecchi amici di famiglia e i miei compagni sparirono, smisero di telefonare, di fare visita ai miei. Senza dubbio, quando i miei cominciarono a parlare della mia morte come di un delitto di mafia, la loro casa, fino ad allora sempre piena di amici e di conoscenze, rimase vuota. Apparve la paura, il timore per quella parola maledetta di 5 lettere. Nell'isola rimanere immobili è meglio che essere quieti. Le buone famiglie tendono a tacere, soprattutto quando si parla di mafia o la si denuncia. Noi in famiglia non ci eravamo mai interessati della mafia. Ora avevamo cominciato a muoverci, a parlare, ad attentare all'universo chiuso di una Barcellona regolata dal principio della sottomissione e dell'omertà. Ci trasformarono in eretici, condannati a vivere come i siciliani atipici, soli, isolati, come vissero le famiglie di Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, Libero Grassi, Nino Miceli, il generale dalla Chiesa, Beppe Alfano, Pippo Fava, Rocco Chinnici, il giudice Terranova, Boris Giuliano, Roberto Antiochia, Placido Rizzotto, Ninni Cassarà, Graziella Campagna, Mario Giuseppe Francese. In Sicilia le vittime di mafia solitamente muoiono 2 volte, o forse più. Prima gli assassini tranciano la vita, dopo il contesto impassibile e spietato annienta la dignità del morto e quella della sua famiglia. La peggiore morte è quella che viene dalla cancellazione della memoria. Noi rivendichiamo la verità e la giustizia per i nostri morti. Un atto di memoria è un cammino di liberazione.